Pane, burro e rock and roll. Sono le 7, 30 minuti primi. La tua colazione rock. Questa è la vostra colazione. Ogni giorno alla mattina ascolta. Quella che dà assuefazione. È decollata la nostra astronave. La punta dell'astronave si chiama Poppa o Prua. La poppa, via. È direzionata verso le 9 del mattino. Questa è la nostra missione. Arrivarci integri e lasciarvi poi agli altri programmi di Rock FM. 335 100 7777, il nostro SMS. Saluti a Manuel. Ma secondo voi è rock pagare 250 euro per vedere gli Zeppelin? Buongiorno ragazzi, spero sarete dalla mia parte nel trovare questo poco rock e molto egocentrico. Manuel, sì, un filo egocentrico lo è, però per gli Zeppelin, dai, non fare il braccino corto. Per gli Zeppelin a sorteggio, hai capito? Che ci vai solo, solo tu. Saluto anche a Marco, Gian da Genova, Gianfranco, il nostro rocker di riferimento da Napoli. Accendi il telefonino che abbiamo bisogno di te quest'oggi. Restate con noi, vi svegliamo al meglio. Come che c'è? C'è pane, burro, rock and roll. Bembe che c'è. From England, Oasis. Per tutti quelli che si stanno preparando la prima sigarettina truccata della giornata, roll with it. Rollatevela con questo. Questa è la traduzione del titolo. You gotta roll. I'm gonna take me away in life. volte mi soffermo a pensare che forse sì, abbiamo salvato la cartolina postale, ma abbiamo distrutto la foresta amazzonica con tutta la carta che è stata utilizzata per le cartoline che ci hanno spedito, ma questo sarà un altro problema del quale ci preoccuperemo più avanti. Speriamo sia carta riciclata. Può essere. Speriamo. Chissà anche dove andremo a metterle tutte queste cartoline. A volte le conserveremo rigorosamente, religiosamente, e altre definizioni con la R davanti, iniziale, perché nel nostro archivio non potranno mai mancare queste testimonianze dell'attività dei nostri radioascoltatori. Del vostro affetto. Quest'oggi partiamo il viaggio da Calciano, MT, Matera, dove ci sono delle bruttissime panoramiche di Calciano, che invece speriamo essere una ridente cittadina. Le piace? Non è meravigliosa? Ma, come? Sì, è comunque interessante. Mi piace il francobollo. Francobollo bellissimo, un francobollo di San Francesco. Sì, molto istoriato. Dorato quasi. Panorama e vedute di Calciano. Erika e Giada, 13 anni, gemelle, simpaticissima, fantastica, estroversa. Cara Rock FM, sei un paciugo. Sei un paciugo. Sei un paciugo di elementi che ti rendono speciale. Ciao sbarbini, siete forti. Erika e Giada, Erika Fanti, le piccole Fanti, sì, sì, Fanti, le gemelle Fanti, e Giada Fanti. Grazie per il paciugo soprattutto. Ha notato DJ Ariele come le ragazze tendano a fare il tondino, il cerchietto sulla I. Lei invece fa i cuoricini. No, io faccio il puntino, perché a me piace mettere i puntini sulla I. C'è chi i puntini la mette da altre parti. E lei invece se li mette sulla I e fa molto bene. Le proporrei di spostarci a Maratea. Ciao ragazzi, anch'io aderisco alla campagna contro l'estinzione della cartolina. Di saluti. A proposito, secondo voi Yuppidu è rock o no? A presto, Pietro. Pietro, tu apri una voragine. Come si fa a dirlo così su due piedi? Dobbiamo riflettere. Yuppidu. Celentano, sì, è certamente alla sua maniera, a modo suo, Yuppidu. Un rockettaro, certamente. Questo è innegabile. Andiamo invece nelle Cinque Terre. Torniamo nell'amata Liguria, che spesso e volentieri ci scrive. In realtà il francobollo però è Bari. Perché arriva da... Cinque Terre sono in Liguria. Spero sì, non... sì, sì, sì, sono certo in Liguria, ma forse la persona si era dimenticata la cartolina nello zaino. Attenzione, scopro, vado a leggere cosa c'è scritto, sì. che stupidamente non avevo fatto. Come le cave e buone cartoline rock di un tempo comprate in un posto e spedite da un altro. Ora siamo ad Ostuni. Ah, in sostanza, ragazzi, quindi Stefano e Angela, che tra l'altro hanno avuto l'idea geniale di firmare male, con la firma normale, e sottoscrivere in stampatello Stefano e Angela, così riusciamo a leggerlo anche noi stupidini. Sotto proprio laddove non si deve non si scrive sotto questa riga. E Homer Simpson scrive: d'accordo, va bene. L'ho sentita bellissima questa cartolina, dalle Cinque Terre, ma da Ostuni. Da cioè che ci sono le Cinque Terre di Lima, Ostuni e il francobollo. Sì, la panoramica super viaggio, la panoramica mi lascia basito, perché mostra una specie frange. Di bravissimo, non avrei saputo dire meglio. Sembra, dà l'impressione, dà come l'idea di un maremoto con un'onda spumeggiante che si frange su uno scoglio gigantesco. Un po' di mare per gli ascoltatori di Pane, Burro e Rock and Roll, grazie a Stefano ed Angela. What I call myself. ragazzi, che portamento ha questa Teacher Jethro Tull? Cioè, è portata da signori, eh. Io me la stavo facendo con la batteria, qua in fuori onda, insieme a Spadino. Allora, questa trasmissione si chiama Pane, Burro, Rock and Roll. Qui c'è l'Ariele, ciao, buona giornata. Spadino, trasmettiamo da Rock FM, una radio con alcune frequenze sparse in Italia, piccoline, confronto alle altre stazioni radiofoniche, ma da questa stagione li abbiamo sfidati tutti, vogliamo vincere noi le gare d'ascolto e soprattutto sappiamo di avere all'ascolto dei veri rocker che spesso si spazientiscono a sentire che vogliamo sdogare, cioè il concetto base, tenterò di spiegarlo, delle riunioni di redazione che facciamo è tentare di dimostrare che fondamentalmente tutto è rock, basta prenderlo per com'è. Ieri abbiamo sdoganato il lotto, non vi nascondo che quest'oggi secondo me peggioriamo la situazione, quindi restate incollati alla frequenza perché ne sentirete di cotte e di crude. L'obiettivo di quest'oggi sarà quello di sprovincializzarci, basta puzzare di provincialotti come solo noi di Pane, Burro e Rock and Roll sappiamo fare, va bene. Era una cosa, un messaggio per avvisarvi che oggi ne sentirete di cotte e di crude. Saluti veloci, caro Ariele, volevo sapere, la televisione dopo il temporale di ieri fa dei colori strani sui lati, tipo tutto verde sui lati, come la sistemo? Gettala dal balcone, così come festeggiamento, e ascolta la radio. Un saluto a Marco, sei cialtrone ma ti voglio bene, grazie caro. L'autista di Milano ringrazia per l'inizio di quest'oggi, prego, è un piacere. Nuovo gruppo d'ascolto, fate largo ragazzi, ne abbiamo un altro che entra in squadra con noi. Gruppo d'ascolto direttore del supermercato firmato CEO 70. Secondo te Spadino, firmato CEO 70, è che lui si chiama CEO 70 o che ha un supermercato firmato, tipo quelle cose CE? Hai capito? Comunità Europea. Vabbè, insomma, ciao, benvenuto comunque. Abbracci anche a Jean, a Luca, che voleva farci sapere che oggi, ma nel 1935, è nato il suo magnifico papà. Auguroni! Vai, l'ultimo, firmato PG, su un altro dei tormentoni nati in questi ultimi giorni, i lampioni crepuscolari. Ah, che Dio li benedica. La domanda è questa, vorrei sapere se i lampioni crepuscolari scrivono poesie o partecipano alla Coppa dei Lampioni. C'è gente che sta messa peggio di voi, sappiatelo. Condividete questa gioia con noi e gustatevi Queen di Another One Bite the Dust. Ho deciso, Spadino, è inutile che cerchi di fermarmi. Oggi ci sprovincializziamo. Ci sprovincializziamo. Oh! Let's go! No sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? It took me for everything that I had and kicked me out of my own. I am a, I'm satisfied. How long can you stand the heat? And it's all my head for the freedom. Still time to be. Look out. Another one bites the dust. Another one bites the dust. We'll be right back. l'Istituto di Cura Eleonora Duse vi invita a partecipare alla gita sociale di questo mese. Il Torpedone, attrezzato di tutti i comfort, vi porterà domenica 30 settembre a Cascina Monlue, Milano, nell'occasione straordinaria della presentazione al pubblico della patente davvero rocker. Ma no, dai! Ma scusate, ci sono quei signori che vendono le pentole sul Torpedone? Ricordiamo a chiunque vorrà partecipare la presenza sul palco dell'orchestra dal vivo, gli Schiantos. No, sapete perché? Mi mancherebbe solo il tegamino per le uova del tipo antiaderente. Sa, quelli speciali che fanno oggi? Roberto Fricantoni dal vivo e la patente davvero rocker, due piccioni con una fava. No, perché il Pyrex è funzionale, così e tu puoi vedere esattamente quello che stai cucinando e non si attacca, capisce? Sedatelo! Ascoltatemi, amici della casa sedatelo! Di cura! Il Pyrex è veramente igienico! Chi chissà quanti là fuori, gli amici e le amiche che proprio quest'oggi compiono gli anni, e allora perché non ricordargli chi altri festeggiano nello stesso giorno? Si capiva l'introduzione? Sì, molto, molto, molto. Chiaro. Sì, molto. Come si. Sarebbe bastato dire i compleanni molto, del giorno. Molto. Molto. I compleani del giorno con Roberto Fricantoni a Rock FM. Oggi, 19 sì. settembre, facciamo gli auguri a Brian Epstein. Grande! Il famoso, celeberrimo manager dei Beatles, morto, ahimè, nel 67. Ma nato il 19 settembre del 34. Esatto, esattamente. Direi una ventina d'anni prima di lei. Infatti, esatto. Infatti, Fricantoni nacque nel 54. Ma non c'entra niente. Tutti sanno. E proseguirei con un attore di riferimento. Sì, un grande attore inglese, Jeremy Irons. Che bel fiolin. Si ricordi, Geremia Acciai. Si ricordi immediatamente, anziché tradurre i nomi, qualche film, qualche pellicola? Naturalmente, sono preparatissimo su Jeremy Irons, laddove mi esce anche un po' di Mike, buongiorno. Abbiamo Mission Impossible. Sì, Mission Impossibile. Io ballo da sola, di Bernardo Bertolucci. No, mi perdoni, però era Mission e basta. Mission Impossible era Tom Cruise, un'altra cosa. Io ballo da sola, di Bernardo Accidenti, Bertolucci. Allora qui andiamo con mi boicottate, Lei sta solo leggendo male. Ricordiamo anche L'Impero della Mente del 2006 con David Lynch. Auguri a Jeremy Irons. Complimenti. E passiamo ad un altro compleanno. 1951, Daniel Lanois. E chi è? Daniel Lanois era un produttore musicale canadese. Produsse dischi di Bob Dylan, U2, Brian Eno, Peter Gabriel e Robert Robertson. Un pezzo da 90. Auguri, Daniel. Un bel pezzo che non sentiamo parlare di Daniel Lanois. Per quanto riguarda i compleanni, glisserei e chioserei con Victoria Silvestedt. Nata. Sono contento che anche lei sia un po' inciampato. Ogni tanto sì. Modella svedese. Giovane modella svedese che ci piacerebbe tanto vedere, di cui non abbiamo purtroppo la diapositiva. Grazie alla redazione segnaliamo anche in questo 19 di settembre una dolente nota riguardante il grandissimo scrittore Italo Calvino, che moriva proprio il 19 settembre dell'85. Qual è il suo libro preferito di Italo Calvino? Le Cosmicomiche. Complimenti. Grazie. Ottima scelta. Io t'attivo.